Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Egregio direttore, ho ascoltato la lettera di quel radioascoltatore che contestava le misure sulla sicurezza e la sua successiva risposta. Non mi trovo molto d'accordo con nessuno dei due. Prima di tutto, l'autore della lettera gioca molto bene con le cifre, ricordando che vi è un numero ben maggiore di morti sul lavoro che non quelli legati ad atti di criminalità. È risaputo che il 50% circa dei decessi sul lavoro avviene in realtà nel tragitto casa-lavoro-casa, pertanto la statistica è a dir poco falsata. Vorrei sottolineare, però, che non si devono contare solo i morti, ma anche gli stupri, le piccole violenze che lasciano segni non visibili ad occhio nudo. Avete mai provato ad entrare nella vostra casa, magari da soli, e sempre da soli, soggiornarvi di notte dopo che questa è stata visitata da qualche malintenzionato? Il disagio psicologico che deriva da una simile situazione è immenso, ma non entra a far parte della casistica dei morti per violenza. Provate a pensare a un anziano, o peggio, a un'anziana scippata della sua pensione. Pensate che questa persona non viva un disagio vero? Non pensate che questa persona abbia diritto a una risposta dallo Stato? È forse questa una cittadina di serie B solo perché, avendo avuto la sfortuna di non morire sul lavoro, desidera vivere serenamente gli ultimi anni della sua vita? Ma neanche questa rientra nella casistica dei morti per violenza. Le iniziative poste in essere dal governo non sono certamente risolutive, ma rappresentano un segnale. Il segnale che la popolazione, la maggioranza dei cittadini, quelli per bene, non sono abbandonati dalle istituzioni. Viceversa, il segnale mandato da altre istituzioni, tipo la magistratura, indispettisce la maggioranza degli italiani, i quali non capiscono perché a un malvivente, reo confesso o colto sul fatto, si debbano applicare tutte le attenuanti, mentre a un cittadino medio che arriva a cadere nelle mani della giustizia viene complicata la vita magari solo per farsi annullare una multa sbagliata. Le misure adottate, per quanto deboli, sono sempre meglio del niente dei governi precedenti e, d'altro canto, da qualche parte si deve pur cominciare. Certo, per valutare l'impatto delle misure adottate bisognerà attendere qualche tempo. I cittadini però avvertono subito se qualcosa è cambiato, perché lo sentono sulla loro pelle e capiscono benissimo se hanno solo valore di propaganda elettorale o possono generare qualcosa di buono. Giorgio, provincia di Vicenza. In pieno centro abitato, una strada interdetta al transito autoveicolare. Alle due estremità la segnaletica regolamentare, malinconicamente, illanguidisce, ignorata. I cittadini, quelli delle probabili ronde, la percorrono regolarmente in su e in giù. Mancano i vigili. Per fortuna, si dice. Che il medico possa denunciare l'immigrato irregolare che gli si rivolga per cure e assistenza sembra un vero lampo di genio. Perché non permettere anche all'avvocato di fare altrettanto nei riguardi del malvivente che gli affidi la difesa? E agli altri professionisti, ciascuno nel suo specifico campo di attività, di seguire la stessa regola? Forse non avremmo più abusivismo edilizio, riciclaggio, catastrofi finanziarie, lavoro irregolare, evasioni tributarie e contributive, dissesti idrogeologici, eccetera. Le ronde cittadine, necessariamente senza armi, più che un deterrente, potrebbero fare da detonatore. Potrebbero accendere gli animi anziché sedarli, malgrado gli innegabili, sacrosanti, buoni propositi. Ancora una volta, dal pacchetto sicurezza, affiora il tentativo di voler celebrare le nozze con i fichi secchi. Una serie di divieti e sanzioni per una serie di attività illecite da sempre. Ancora una volta, però, mancano i controllori, ossia le risorse per accertare, prevenire, reprimere. Ancora una volta il legislatore, chiuso nel suo palazzo dorato, sembra lontano dalla realtà del paese e continua a trastullarsi tra colorazioni e stiramenti in una infruttifera esercitazione di funzione legislativa. Ciro Bacoli. Secondo la legge, chi viene rapinato dovrebbe rivolgersi al ladro chiedendogli: «Caro ladro, gentilmente, mi puoi dire se sei armato oppure no? E magari dimmi anche se hai intenzione di farmi del male o spararmi oppure no?» Infatti, se il ladro non è armato, la vittima diventa carnefice. Siamo sempre nel solito paese di buffoni, dove stiamo particolarmente attenti a difendere Caino, strafregandocene di Abele. Se muore un padre di famiglia, chi se ne frega? Se muore un malvivente, allora apriti cielo. Siamo in uno stato di polizia, uno stato di sceriffi, di giustizieri, e che diamine. I malviventi dovranno pure essere liberi di rapinare, ammazzare e rubare in santa pace, o no? Marco, da Reggio Calabria. Gentile direttore, ho appreso della morte della ragazza dalle televisioni e ne ho provato, mi creda, sollievo. Premetterò una cosa. Sono cattolico e credente, ma non per questo, avendomi dato Dio un cervello oltre che un cuore, rinuncio a provare a riflettere sui grandi drammi che la vita ci sottopone. E quello di Eluana e di suo padre riguarda ciascuno di noi come esseri umani, prima ancora che come cittadini di questo Stato. In cuor mio, sempre più spesso, negli ultimi giorni, ho sperato che Eluana potesse venire meno prima che la terapia di sospensione dell'idratazione potesse essere conclusa e che qualsiasi altro provvedimento legislativo d'urgenza potesse complicare ulteriormente la vicenda. Si tratta di una questione elementare di dignità e rispetto, spesso omessi o calpestati durante questi lunghissimi 17 anni, a danno di una persona priva dei mezzi e delle risorse per potersi difendere. A tal proposito, mi chiedo una cosa molto semplice. È stata vita quella trascorsa da Eluana Englaro durante il coma? Non intendo il fatto che vegetare, ciò a cui era ridotta Eluana, non sia vita, da un punto di vista scientifico, ma credo che questa non sia vita dal punto di vista umano, e proprio per questo non posso fare a meno di chiedermi se Dio, chiedendo all'uomo di difendere la vita, consideri come tale, per un essere umano, uno stato puramente vegetativo. Nessuno può stabilire se Eluana si sarebbe mai ripresa dal coma, né se abbia percepito alcuna sofferenza in questo lungo oblio o durante le prime fasi di applicazione della terapia che avrebbe dovuto condurla a morte. La scienza non ci soccorre in tal caso e questo ci priva di riferimenti concreti. Personalmente però ho un'immagine di questa vicenda che mi sono formato durante questi mesi di acceso dibattito ed è quella di un essere umano come una boccetta contenente profumo, ovvero di un corpo con la sua anima e dunque con la sua vita racchiusi all'interno. Come accade per ogni boccetta di profumo, se questa si rompe, ovvero se il corpo muore, anche il profumo, come l'anima e la vita per un corpo che muore, scomparirà. Ma se è il profumo a terminare anzitempo, ovvero la vita a consumarsi prima della sua fine naturale, il suo involucro, come un corpo mantenuto artificialmente in vita, potrà conservarsi svuotato anche per molto tempo a venire. Daniele. Il 9 febbraio 2009 una morte ha fatto scalpore. Per giorni e per mesi ha suscitato dibattiti, ha fatto scorrere inchiostro, ha riempito siti web e linee telefoniche, ha fatto parlare la gente, ha scosso le coscienze vere e presunte e talvolta ha fatto ragionare. È stata la morte di Eluana Englaro, una morte come tante o una morte diversa. Ho visto con la mente, l'immaginazione, la disperazione e il dolore di tanti genitori per la morte di un figlio per malattia, per un incidente in motocicletta o in auto. Ho visto le morti per mafia e per camorra, l'imprenditore che si ribella al pizzo e viene barbaramente ucciso, le morti per liti inutili, per un sorpasso, per un posteggio. Ho visto cadere il muratore dall'impalcatura. Ogni giorno, dicono le statistiche, muoiono in Italia almeno 3-4 persone per incidenti sul lavoro e 5 o 6 per incidenti in casa e 10-15 per incidenti d'auto. Ho visto morire davanti al pronto soccorso persone rifiutate per mancanza di posti letto. Ho visto morire negli ospedali per negligenza o incapacità. Quanta gente ieri ha pianto i propri cari. Ma nessuna di queste morti ha suscitato dibattiti, ha fatto scorrere inchiostro, ha riempito siti web e linee telefoniche, ha scosso le coscienze e ha fatto meditare la gente. E quanti morti ieri nei paesi in guerra? Militari e civili, rapiti da questa vita per sempre da cause ingiuste e non volute. E quante barbare uccisioni ieri causate da dittature feroci e senza pietà. Ho visto languire e morire in piccole celle cittadini colpevoli di opporsi alla violenza dei dittatori. Ho visto morire ieri migliaia di bambini nel mondo per fame e per malattie. Centinaia di uomini e donne esalare l'ultimo respiro per malaria, AIDS, tubercolosi, lebbra, vaiolo e altro ancora nei paesi poveri del mondo. Nessuna lacrima per queste morti, nessun moto della coscienza, nessun dibattito, nessuna telefonata, nessuna email, nessun decreto legge da approvare velocemente, nessun prete a predicare dal pulpito, nessun integralista cieco e fanatico a gridare la propria indignazione, nessun politico falso e ipocrita a parlare dentro al video. Ma lunedì è morta Eluana Englaro, tenuta in vita artificialmente da 17 anni. Tenuta in vita da una macchina cieca e senza cuore, da una spina elettrica attaccata al muro. Tutti si sono agitati, cara Eluana. Ma nessuno ha pianto 17 anni fa. E nessuno ha pianto lunedì sera. Luigi. Secondo me l'attuale crisi dell'industria automobilistica è causata soprattutto dall'eccedenza di auto prodotte, senza la presenza di una relativa richiesta dei consumatori. Non è possibile cambiare auto ogni anno come vorrebbero i produttori, tenendo anche conto dei costi di gestione di un'automobile, sempre in aumento. Non sono contro il capitalismo, ma ritengo che debba essere riesaminata la concezione di domanda-offerta, senza la quale gli aiuti statali non servono a molto, visto che questi problemi si ripetono periodicamente. Senza contare che ci sono settori come quello turistico-alberghiero, fondamentale per l'Italia e nel quale lavoro, che non è minimamente tutelato e sostenuto dalla politica, tantomeno le persone che vi lavorano. Com'è possibile fare il cuoco o altri lavori simili con notevole dispendio di energia psicofisica a 60-65 anni? Chi assumerebbe già un cinquantenne, visto che un dipendente viene licenziato ogni anno e se non si è al top, come pochi, la concorrenza è spietata? Tutto ciò rilevando che gli orari non sono quelli d'ufficio o di fabbrica, ed è già una fortuna se si ha il giorno di riposo. Enrico. La soluzione per calmierare gli affitti non potrebbe essere aumentare le tasse sugli appartamenti sfitti, in modo che tutti gli appartamenti vuoti siano messi sul mercato e l'aumento dell'offerta porterebbe inevitabilmente a una diminuzione dei canoni? Oggi purtroppo, per esperienza personale, vedo che ci sono appartamenti che restano sfitti per 10-12 mesi, ma i canoni non si abbassano. Se questa attesa diventasse un costo, sicuramente converrebbe ai proprietari abbassare i canoni. Luca. Non dirò nulla di nuovo, ma nei discorsi di Obama, e quindi anche nell'ultimo fatto, la differenza è proprio mettere in campo la propria fallibilità, quella che tutta la gente comune tocca quotidianamente. Se da un lato la sua posizione è quella di dover trasmettere una certa sicurezza di azione, dall'altro Obama cerca di farlo esprimendo uno spirito fatto di speranza fattibile, che cambia a seconda delle necessità. Tutto questo, a differenza dei predecessori e dell'attuale modo di fare della maggior parte dei politici mondiali, che ostentano sicurezza a gogo, forti del potere acquisito. Daniele. Caro direttore, a Milano si continua a parlare dell'Expo 2015, ma a 10 mesi dall'assegnazione non mi pare ci sia alcun progetto esecutivo, mentre si discute solo di nomine e compensi. Non rischiamo di perdere questa grande occasione? Che ci sia al fondo una grande contesa politica? Filippo. Caro Filippo, il rischio per Milano di fare una brutta figura è reale e peraltro la sta già facendo. Ha ragione, a quasi un anno da quella decisione si continua a parlare di ipotesi e di programmi, ma non è stato aperto un cantiere, non è stata mossa una pietra, non è stato approvato in via definitiva nessun progetto, non è stata avviata nessuna scelta concreta. A questo punto è più che lecito chiedersi se il capoluogo lombardo farà in tempo a mantenere le promesse. Qualche osservatore malizioso ha sottolineato che i contrasti hanno come protagonisti Letizia Moratti, Roberto Formigoni e Giulio Tremonti, rispettivamente a capo del Comune, della Regione e del Ministero dell'Economia, che non a caso sarebbero le tre personalità di cui maggiormente si parla per la successione, quando sarà il momento, di Silvio Berlusconi. Si potrebbe trattare quindi di una battaglia sotterranea per non favorire l'uno o l'altro in una posizione di grande visibilità internazionale nei prossimi anni. Con il rischio, tuttavia, che una brutta figura si rifletta negativamente su tutti e tre. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18.30. Continuate a scriverci.